production. FDP più, oh, dai, tutto uguale, oh. E ormai non c'è più niente di originale, nessuna differenza tra underground e commerciale, nessuna differenza tra serio e banale. Non sono io che vedo male, per tutto uguale. Sono un tipo distinto, sono variopinto, ragiono distinto e fra sono convinto che qua non esista la possibilità di cambiare le regole a questa vita, di trovare una cazzo di via d'uscita che non preveda una salita e fango tra le dita. Che mi risparmi la fatica di lottare per una visione che non verrà mai capita. Puoi avere tutti i cloni che vuoi, ma varrai sempre zero, perché zero moltiplicato per mille dà sempre zero. E non potrai essere fiero di ciò che fai se non resti vero. Io c'ho un lato demente, sono malato demente, ma ho imparato a non cagarmi quello che dice la gente. Quindi se la gente dice che non valgo niente, io mi sento 3000 volte più potente. E ormai non c'è più niente di originale, nessuna differenza tra underground e commerciale, nessuna differenza tra serio e banale. Non sono io che vedo male, per tutto uguale. E ormai non c'è più niente di originale, nessuna differenza tra underground e commerciale, nessuna differenza tra serio e banale. Non sono io che vedo male, per tutto uguale. E poi dicono che siamo noi quelli che vedono tutto uguale. Tutto uguale, tutto uguale. Io con Blaze FDP faccio rap paranormale. Non faccio la star, sono artista emergente. Non sono niente, ma meglio che certa gente. Sento chi mi offende, rigiro le accuse. Faccio punchlines per le fan più deluse. No, sono commerciale e se ti chiamo baby è solo per chiederti se ti pieghi. Piega, nada interesse per queste quattro feste. Sangue esclusivo, gruppo P. Ah, it's ok, ok. Faccio rap e spendo cash, sempre vita flash, sempre sotto stress. E da quando sono usciti Tokyo Hotel, ho cominciato a pompare di più Jingle Bells. Senti ritornello fra qua, è tutto uguale. Omicidio corposo, la tua musica banale, oh. E ormai non c'è più niente di originale, nessuna differenza tra underground e commerciale, nessuna differenza tra serio e banale. Non sono io che vedo male, per tutto uguale. E ormai non c'è più niente di originale, nessuna differenza tra underground e commerciale, nessuna differenza tra serio e banale. Non sono io che vedo male, per tutto uguale. Oh, lo sai com'è che va? È tutto uguale fra Blaze, FDP, Edor sul beat. E noi vediamo tutto uguale. Raptus animale, cambia questo canale. Patetico commerciale, musica da ascoltare. Nella guerra dei media noi ci godiamo il finale. Rido, ti do vantaggio sul Tinder. Io sto commerciale come la droga che ho visto. Mai visto, senti sto, nel tuo sguardo capisco l'attimo esatto. Ti piscio, zero show, zero money, mo ci sentirai o no? Sì. Per la fama ora, usiamo il free download. Tutti commerciali, tutti del Bronx. GLOCK, la bocca ti si attappa. Tutto uguale, non ci credo. Tutto uguale, no, no, non lo vedo. Sguardo fisso, il clima teso. Ho preso, rime punchline, con cui poi ti ho steso. E ormai non c'è più niente di originale, nessuna differenza tra underground e commerciale, nessuna differenza tra serio e banale. Non sono io che vedo male, per tutto uguale. Ormai non c'è più niente di originale, nessuna differenza tra underground e commerciale, nessuna differenza tra serio e banale. Non sono io che vedo male, per tutto uguale.